naturalmente sono qua insieme ad altri per un minimo di discussione su una mattinata che è stata molto intensa. Abbiamo, penso, così recuperato almeno una ventina di minuti possibili, quarto d'ora, 20 minuti. Mi rendo conto che le cose che sono state dette sono state tantissime e che i problemi che urlano nella testa sono ancora di più, e naturalmente tutti vorremmo averli davanti per una risoluzione. E direi che un dibattito contenuto potrebbe essere ragionevole. Monsignor Palese. Io esprimo i miei complimenti per tutti quanti gli archivisti o studiosi che hanno portato l'informazione sulla consistenza, sull'ampiezza cronologica e sulle quantità archivistiche riguardanti i fondi visitali degli archivi di queste province. Ascoltando le relazioni efficaci, io ho notato dall'esterno che c'è un problema di carattere storico che credo a ciascuno dovrebbe coemergere in maniera complessiva. Un dato che mi ha impressionato è la enorme fluidità circoscrizionale. C'è una storia delle diocesi dentro le quali le visite si svolgono, di cui bisogna tener conto non soltanto nella singola diocesi, ma nell'insieme della provincia, nell'insieme della provincia ecclesiastica, del patriarcato, eccetera. Credo che in una prossima tornata sarebbe molto utile, magari approfondendo questo aspetto, è un'esigenza di carattere storica, però credo che anche gli archivisti sia importante possedere non soltanto la evoluzione della propria diocesi, ma anche il quadro d'insieme, in modo tale per leggere poi i fenomeni in maniera complessiva. Credo che un quadro storico sulla organizzazione delle diocesi nel contesto delle evoluzioni politiche generali del territorio, credo che sarebbe molto utile, proprio per non fare la storia una somma di storie, ma tentare poi una storia complessiva all'interno degli stati, all'interno delle varie poi formazioni dentro le quali gli stati poi sono stati coinvolti. Grazie. Qualche altro intervento? Sì, io mi rendo conto che dopo una giornata fra ieri e stamattina massacrante, vedo c'è qualche difficoltà e un po' di stanchezza, però vedo che la dottoressa Romanelli... Molto velocemente, volevo complimentarmi anch'io con i colleghi per questa impostazione del lavoro che, come dire, che ho ammirato anche nella sua analiticità e della quale credo di condividere un po' anche la, come dire, la passione euristica. Avrei due domande di chiarimento e una preghiera che vorrei fare al progetto di informatizzazione delle visite pastorali. Una domanda è questa, forse è stato detto io non l'ho colto. È fondamentale sapere qual è l'ampiezza dei dati che sono stati immessi, cioè tanto più lo strumento è utile quanto più si riferisce a dare di documentazione significative e estese. Allora, è un esempio fatto solo su alcune sedi, che prospettive ha di allargarsi, eccetera. Seconda cosa, che è un po' collegata, si è parlato anche nei giorni passati di questa clamorosa esperienza che è stata la registrazione delle visite pastorali, che è arrivata a produrre decine di volumi, che ha coinvolto visite di molte diocesi e che è ferma dal 1990. Una registrazione che fu accompagnata anche nel momento in cui partì da un dibattito molto serrato e intenso sulla qualità delle informazioni da registrare. C'era chi metteva in dubbio la legittimità di un'operazione del genere, chi la sosteneva. Io credo che sia stato un momento altissimo del dibattito storiografico sulle fonti ecclesiastiche, e il fatto che siano stati pubblicati a cura di Agostini i verbali di quella, di quelle commissioni, è già un segnale che si è storicizzato già questa cosa. Bene, sono fermi dal 1990, si è ricordato anche stamattina queste pubblicazioni. Sono ferme probabilmente per motivi di costi, per motivi di risorse di ricerca da investire, però io mi chiedo se non siano fermi anche perché c'è la sensazione, almeno implicita, non esplicitata, che oggi gli strumenti per una registrazione o comunque per un censimento delle informazioni di quella fonte sono altri. Sono altri, sono più duttili, sono quelli che ti consentono non solo di lavorare con gli indici cartacei, ma con queste query di ricerca e così. Allora, io volevo chiedervi, nella vostra autoconsapevolezza, che rapporto c'è di continuità implicita, pur nelle differenze, o esplicita, con quell'esperienza delle registrazioni? Il fatto che esiste questo progetto in qualche modo significa che c'è una sorta di continuità ideale, è stata messa a tema, questo mi interesserebbe. La terza è una richiesta che io vi farei, proprio nello spirito di una messa in comune degli strumenti di lavoro. A me hanno interessato molto non solo i dati che emergevano dalle schede, dalle tabelle in movimento proiettate, ma hanno interessato ancora di più i vostri repertori di lavoro, cioè l'elenco degli enti, l'elenco delle sedi di conservazione, l'elenco delle tipologie documentarie, cioè l'elenco delle figure giuridiche e così via. Io chiederei se fosse possibile disporre di questi piccoli tesauri che voi avete messo insieme, proprio per farne un uso comune. Per non moltiplicare i lessici, per non moltiplicare le tabelle. Io credo che già una possibilità di dialogo fra banche dati diverse potrebbe essere data dall'utilizzo di forme normalizzate, autorevoli, di authority file, di lessici specializzati. Allora, ecco, è una proposta di lavoro comune che io vi faccio. Noi ne abbiamo alcuni di lavoro nostri, più che altro soprattutto sui campi a testo semilibero, a testo libero, abbiamo bisogno di darceli, non sui campi col sì, col no o con la scheda, no? Ecco, grazie. Grazie anche alla dottoressa Cavazzano Romanelli. Vediamo se c'è qualche altro intervento. Prego. Poi dopo questo, se c'è qualcun altro, parli o taccia per sempre, nel senso che poi bisogna anche rispondere e tirare qualche piccolissima conclusione. Magari si vuol dire qualcosa anche Don Livio Sperapani. Prego. Volevo riallacciarmi un attimo a quest'ultima domanda, secondo me centratissima, che ha fatto la signora Romanelli. Perché, per esempio, vedo qua questo programma gira in ambiente Macintosh, ISIS gira in ambiente IBM compatibile. Questo cioè, è multipiattaforma. È multipiattaforma. Io normalmente lavoro su IBM ed è per questo. E quindi la compatibilità dei dati è al 100%. Era richiesta agli informatici una cosa che fosse utilizzabile da tutti. Infatti, perché questo è uno dei grossi problemi che per esempio mi ritrovo io alcune volte a dover consultare roba fatta per altri sistemi e diventa impossibile perché le conversioni sono assurde. Poi, un'altra questione. Prima si parlava anche di microfilmatura, di, non so, nell'archivio di Trento avete microfilmato praticamente tutto quanto. L'utilizzo per esempio di nuove tecnologie tipo i foto CD, a che punto è? Perché per esempio in una piattaforma del genere sarebbe possibilissimo inserire l'utilizzo di queste fotografie informatizzate, fra virgolette, e utilizzarle anche nei casi dubbi. E fra l'altro permetterebbe la conservazione, quantomeno sulla carta, perenne, mentre un microfilm si sa che non dura tanto. Bene, allora prima di tirare fuori una conclusione brevissima, che farò io, darei la parola a dottor Paoletti, soprattutto per rispondere al terzo punto degli interrogativi posti dalla dottoressa Cavazzano Romanelli, anche perché agli altri due risponderò io personalmente come coordinatore del progetto in assenza del direttore Prodi, che aveva detto che sarebbe venuto, ma è stato trattenuto in questo momento fuori. Prego Paoletti. Sì, forse possiamo subito premettere il discorso sollevato dal dottor Boscolo, che è più semplice, no? Dal punto di vista informatico non ci sono problemi. Universo Macintosh, universo IBM, si possono utilizzare entrambi, perché era stato richiesto agli informatici un prodotto informatico che girasse sulle due piattaforme. L'unico problema è che magari qualche parola accentata dà dei caratteri un po' strani, ma è una cosa, come succede spesso, però è l'unico, assolutamente l'unico problema che si è verificato. E per i foto CD ci avevamo pensato, per i CD però sono estremamente ingombranti, appesantiscono molto, bisognerebbe avere un grosso server, una grossa macchina, magari una S400, comunque delle macchine molto grosse che permettono di gestire queste cose. Il progetto era di avere una demo di questo tipo, però poi diventa solo una cosa per i centri universitari, quindi per adesso si è scelto di fare un qualche cosa che può girare anche su un normalissimo portatile, quindi può essere utilizzato da tutti, può essere utilizzabile da tutti, anche da un archivio diocesano con pochi mezzi o da un singolo utente particolarmente appassionato. Per quanto riguarda il discorso dei repertori, stiamo lavorando su una definizione di queste cose che dovrebbe poi entrare a far parte della sorta di guida o manuale dell'operatore del programma, perché si richiedono una serie di competenze, magari non eccezionalmente approfondite, ma competenze di tipo informatico al minimo, competenze di tipo storico per sapere di che cosa si parla, perché poi i documenti bisogna anche capire che cosa vogliono dire, un minimo di competenze, perlomeno un minimo di sensibilità archivistica, e mettendo assieme le esperienze, le conoscenze di persone che provengono da diverse regioni d'Italia, quindi hanno visto diversi archivi, si è arrivati a dare un quadro, un repertorio di tipologie che hanno delle forzature, però si è cercato di ridurre le forzature al minimo, cioè rispettiamo la fonte il più possibile, però non possiamo riportare sempre esattamente la dizione della fonte, perché a seconda delle varie epoche del quadro geografico cambiano i nomi, in realtà poi magari vogliono dire la stessa cosa. Ecco, alcune cose non si sono viste, ma nelle schede ospizie, schede confraternite, aprendo la scheda, poi ci sono altre tipologie, altre differenziazioni, sono confraternite e simili. Poi c'è la possibilità di precisare queste cose, sì, è una cosa che si farà, ci si è pensato,